faccio? 500 diviso 27. €18 prendo al giorno. Ah, risorse di rampe. No, al giorno, una 2 ore, 9 euro a ora, mi dà, 9 euro e qualcosa a ora. Sta lavorando pochissimo, non te ne manca ammazzare. Lavori quell'ora lì e poi ti andare a casa. No, ammazzati non ti ammazzi, so che ti divisa sempre il ghizzo. E conta, io uso anche la macchina per andare lì. Sta benzina a gusto, amianto. Vabbè, cosa vuoi? Ah, manco poco poco, vedrai, l'ho messo. Amo ancora un poco per... Vabbè, le panestre, la benzina, non è che può pugnare la benzina, però, sai com'è, no? E va bene, adesso sto... Vediamo un po', farò, tu compro la bicicletta elettrica. Se l'ha presa, se l'ha presa l'oro, quella da 36 watt. Cazzo, costava 1000 euro e l'ha pagata 600 euro. Vabbè. Vabbè, comunque sia, la macchina ciuccia troppo, ma infatti eviterò me. La verità, quando avrò la macchina eviterò di usarla troppo, perché sembra così, ma salire da qua dove lavoro io, che sono già 6 km, 5-6 km sono, e ciucciami la macchina, se la tratti sempre ciuccia. Invece con la moto, essendo un pistone, consuma molto molto meno. Cioè ci vado 5-6 volte, con 5 euro, ma avanza, mi avanza e mi rimane pure. Lo faccio anche molto più veloce a arrivare al deposito, cioè dove lavoro. Perché sembra così, ma da latidozza ai chibi, cazzo, vivo benzina. Ma... non li pongo benzina, non li pongo sempre 20, 30, non li pongo benzina, ogni tanto pongo 20 euro di benzina, se cazzo pongo 20 euro di benzina, pongo 5 euro, mamma. Ma io per fare lo stesso tratto tuo, che all'incirca è uguale, cioè, che all'incirca è uguale, anzi tu anche di meno di me, perché abiti al monte, io devo salire da Latedolce, per farmi lo stesso tratto tuo, per andare a lavorare, io cioè, solo parlo solo di lavorare, ne consumo molto meno di te di farlo con la macchina, prova a fare, solo usarla lì, solo usarla dove tu lavori, cazzo, minimo mi vuole 20 euro. Cosa faccio, non ci vado. Alla fine, la bici, quella mi ha tutto, che è un casino in salita, non ce la fa. Mi è venuta meno male, alla fine ci ho anche perso, vabbè, pazienza. Perché poi l'ho provata a aggiustare anche, c'era il mozzo che si muoveva. Infatti mi va meglio che avevo fatti cambiare da loro, non mi tirare bene i freni. Infatti c'era cerchione storto. Praticamente per aggiustare il mozzo, e aggiustare il cerchione sono 50 euro, non prendo i pattini anche. Per carità, cazzo. Cioè, ma se non è un poco di maghi. Oh yeah. Ma però io sto parlando che sicuramente quando avrò la macchina, preferisco usare la moto, io la macchina la uso per lui, mi accompagnarsi rubizzino in un manzano, mi dorro, sono convinto che la parcheggio e vado con la moto, anche perché faccio anche più veloce. Cazzo, con la macchina vivo troppo, vivo. Allora, la macchina è come un altro figlio, capito, così è. Un altro figlio, vabbè, comunque cazzo è il coso, usiamo la batteria, che cazzo è, non lo so, ci vogliono le fascette qua, lo devo ricordare. Oh, yeah. Oh, casino Arturio, oh casino. E dice, però che quando va la macchina là la pigli sempre e cosa, mica a me mi fate girare balle voce, mica a me, guida nel traffico mi fa innervosire parecchio a me, cioè immaginiamo di tu se io piglio la macchina, cioè anche quando sono con le bombole mi innervosisce un bel, non vengo dai va, cioè perché anche perché lo devi fare in fretta, ecco, cioè, lo devo fare per lavoro, se no a me dirava che me la futti nuda brutto. Cioè, quando la comprerò sicuramente rimarrà ferma sotto casa, ma più di una borsa. Preferisco usare la moto io. Beh, secondo te è così. Una batteria scarica, c'è. Se la compare è già un cattivo su. Compra la batteria, no? Io mi chiamo nel pozzo. Attenzione. Tanto io adesso sono a piedi del tutto, perché se non usavo la bici, che è un po' bello usavo la bici, andare al centro, capito? E vabbè, aiuto la mia tua Michela, senza se mi viene un capizzino, mi frega di te, va. Frega di te, beh, sono 2 secondi che non ti piace la cosa, così. No. È così anche un casino in Germania. È tornato a breve con Michela. Ehi. Ma in Savoia cosa è successo? Oi oi oi, cosa vuoi fare? Ma mi sente? Ehi, altro, scusa, mi sono spostato un attimo, stavo cercando le fascette. Così te lo do qualcuno a chiudere domani. Sta facendo questa bici elettrica. Quanta chilometri? 3. Chi è questo? Come chi è? Quello dove la sto parlando io, la moglie si è presa la bici. Per spostarsi a Sassari. Ah, non ha patente. No. Ma sono troppo pericolosi questi cazzo di bici, non che si monopoli, sono troppo pericolosi. E sai mica quanto è fatta, cazzo di rosa, di lungazzo. Boh, che vede Teresa Capizzoso che stava cantando Sassarese, la stava aiutando a intonarsi. Ehi, ma la buccia ha fatto, si è alzata, va, aiutala, va, aiutala. Ah, quanto la va, stai con lì, capito? Fa sempre sceneggiate, le fa sempre, le farà sempre, sempre. Cosa c'è, capo? No! No! T'ha salutato! Ciao Gabriele, come stai? No. Parla! Ciao, come tombe di cose così dice. Non toccare nulla qua. Porca miseria. Aspetta che mi stanno chiamando un attimo. 2 coglioni che sono vicino. 2 secondi. Antonio, ci sei? Bombolino, ci sei?